Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bologna, primavera 2011. Quindicenne si toglie la vita con un volo dalla finestra della scuola. Davide se n'è andato un po' di tempo fa. Si è lasciato andare giù da una finestra del liceo. Quando qualcuno si toglie la vita, restiamo agghiacciati dal trafiletto che ne dà notizia. Insorgono cosmici interrogativi. Ma se si tratta di un ragazzo, allora senti un gelo più profondo e ti chiedi se avresti potuto fare qualcosa, anche se tu quel ragazzo non lo conoscevi. Pensi ai genitori, vittime smarrite del rimorso di non aver intuito, impedito, fatto abbastanza, come se servisse. C'è chi pianifica la propria fuga dal mondo, scrive qualche parola su un biglietto, e c'è chi la mette in atto senza premeditarla, il più delle volte. Ma quando a fuggire è un ragazzo, forse la cosa più importante da chiedersi è perché noi adulti non abbiamo saputo parlargli della paura, quella di vivere una vita sempre più complicata, quella di un domani sempre più labile e confuso. Chi ha caricato i ragazzi di questa paura? Noi, senz'altro. Perché avremmo dovuto spiegare che la fragilità è una forza, che non essere perfetti è un male comune e che la felicità è fatta di momenti. Un ragazzo di 15 anni che se ne va così è qualcosa che annichilisce, sgomenta, spiazza. Ci si ritrova davanti a un rebus che non può essere risolto, a una domanda che non può trovare una risposta. Perché qui, purtroppo, si tratta della vita e non di un romanzo giallo, e non c'è trama che si dipani in modo coerente con la scoperta finale di un colpevole. Alcuni amici di Davide si sono chiesti come è stato possibile che un ragazzo senza ombre, di quelli che mai te lo saresti immaginato, il ragazzo che aveva tutto, se ne sia andato così. Tanti anni fa un amico mi raccontò che un suo compagno di liceo, bello, brillante, intelligente, un giorno di colpo spinse l'acceleratore contro un tir, e anche lì si disse: ma come? Aveva tutto. E cos'è questo tutto? La TV dice: parlate coi vostri ragazzi, come se fosse uno slogan, ma un ragazzo lo sa che le parole della TV sono spesso finte. Un ragazzo si sente solo inadeguato, non all'altezza del compito e a volte non sa comunicarlo. Così come noi non sappiamo parlargli della morte e della vita che ne è parente stretta, e non sappiamo parlargli del dolore, persino del dolore di non provare dolore. I ragazzi sono ostaggi di questa brutta ansia di sbagliare, di competere, possedere cose, avere un'immagine. Possibile che solo Vasco Rossi spieghi loro che la vita forse non ha senso, ma che quel senso vale comunque la pena di cercarlo? Come possiamo stupirci se a volte, in casi estremi, le loro paure si traducono nel deprezzamento della vita come atto di silenzio antagonistico al rumore più assordante, al caos più indecifrabile? Forse dovremmo solo sforzarci di dire, a scuola, in casa, ovunque, che siamo tutti quanti, degli esseri umani, e cioè fallibili, e cioè imperfetti, e che l'unica forza che abbiamo è quella di ammettere le nostre debolezze per poterle condividere. Davide non ha trovato un altro modo di reagire, ma per quanto sempre assurdo, prima di ogni analisi sociologica viene rispetto. Il rispetto verso il suo grido afono o inascoltato, il rispetto per un padre che dice: non capisco, aiutatemi a capire, il rispetto di noi stessi, della nostra immensa, imperscrutabile fragilità e la responsabilità etica, collettiva, di un dolore che ci riguarda tutti. Grazie Verasani, in libreria con Cosa sai della notte, editore Feltrinelli, 224 pagine, 13 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.